Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti, buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salvadanaio. Per l'industria del risparmio gestito italiano, vale a dire l'industria dei fondi comuni di investimento, il 2012 si è chiuso con i conti in rosso per oltre 11 miliardi, perdita che però è stata recuperata in parte nei primi due mesi di quest'anno, quindi la partenza dell'anno è apparsa incoraggiante. Va ricordato che gli ultimi anni per il settore però sono stati difficili, spesso i disinvestimenti hanno largamente superato le nuove sottoscrizioni, ci sono stati anni molto pesanti come per esempio nel 2008 quando il settore ha perso qualcosa come 140 miliardi di euro. In tempi di crisi la tendenza è quella di disinvestire non solo dai fondi comuni ma anche dagli altri prodotti sui quali si è scelto di investire, oppure si scelgono prodotti differenti più che disinvestire solo e magari mettere i soldi sotto il materasso. Ora come sta andando? L'anno, dicevamo, è cominciato discretamente e questo è un tema: la capacità della famiglia di risparmiare, l'orientamento verso il fondo di investimento. Accanto a tutto questo c'è un altro tema di grande importanza: sapersi informare, ricevere una corretta educazione finanziaria. Questi sono i primi passi per imparare a scegliere consapevolmente, con serenità, quale destinazione dare ai propri risparmi. Ed è per questo motivo che ogni anno c'è il Salone del Risparmio a Milano. È un evento organizzato da Assogestioni. Anche quest'anno ci sarà e si svolgerà il 17, il 18 e il 19 aprile. E quindi un appuntamento sicuramente per tutti coloro che vogliono sapere tutto ciò che attiene al mondo finanziario, appunto un appuntamento da non perdere. Noi faremo dei programmi di avvicinamento a questo evento ogni mercoledì e poi saremo là in diretta in quei tre giorni per anche accontentarvi in tutte le vostre domande sui temi finanziari. Sapete bene che ne affrontiamo spesso a Salvadanaio, anche se negli ultimi tempi ci siamo dedicati prevalentemente a tematiche di servizio, perché poi le emergenze, come dire, le tematiche di attualità finanziarie delle famiglie italiane sono state anche altre, però insomma sappiate che avremo questo percorso costante con il quale appunto vorremmo aiutarvi ad orientarvi in questo mondo. Questo è il primo mercoledì del risparmio e lo dedichiamo, appunto avete sentito la nostra premessa, ad un approfondimento sul mondo dei fondi comuni di investimento, anche rispondendo alle vostre domande all'800 24 00 24. Con noi questa mattina ci sarà Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, benvenuto, buongiorno. Grazie. Buongiorno a voi. Oltre a scriverci, oltre a mandarci così la prenotazione per le vostre telefonate per intervenire in diretta, ci potete anche scrivere al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Scriveteci su Facebook, il nostro profilo è su salvadanaio-radio24. Siamo anche su Twitter, @salvadanaio24. Raccontateci se nel vostro portafoglio c'è un fondo comune di investimento. Avete capito come funziona? Avete capito anche il mercato sul quale avete puntato, perché oggi sono degli strumenti che consentono la più larga diversificazione settoriale, geografica, però non è detto che appunto abbiamo compreso pienamente la dinamica di uno strumento di risparmio come questo. Quindi condividete con noi le vostre esperienze, se volete anche le vostre perplessità, e le commenteremo questa mattina. Poi faremo un punto anche, anzi lo facciamo subito, poi vi racconto che cosa succede oggi in borsa. Saluto e ringrazio Fabrizio Fornetti, vicepresidente di GFK Eurisco, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Perché a me interessa capire come si è aperto questo 2012, con che segnali per le tasche degli italiani. Lo sappiamo molto bene che è una situazione molto difficile per molti nuclei familiari, perché la disoccupazione è ancora molto alta, per cui chi intanto aveva magari un po' di risparmio da parte ha cominciato ad intaccarlo. Questa è una tendenza che si sta registrando già purtroppo da qualche anno. Ci sono però segnali di ottimismo. A giudicare dalla mattinata di borsa, già la depressione ci è ritornata un po' addosso stamattina. Fornezza, lei che cosa ci dice in un quadro un po' più generale? Sì, sicuramente che ci siano molte preoccupazioni non possiamo che confermarlo, però ad esempio il risparmio non è così devastato come spesso si sente dire, ma solo perché gli italiani, che si sono oggettivamente impoveriti, hanno preferito devastare i consumi piuttosto che il risparmio stesso. Per cui in qualche modo hanno continuato ad accantonare perché in qualche modo sono preoccupati per il futuro, insomma. E questo è il dato di fondo, insomma. Poi se parliamo dei fondi, ma credo Ha qualche cosa da dirci sulla questione fondi comuni di investimento, l'approccio del risparmiatore italiano su questo strumento di investimento? Sì, mi aggancerei a quello che diceva poco fa. Noi vediamo qualche piccolo segnale di ripresa, non soltanto sulle masse, perché noi lavoriamo più sull'opinione, quello che fanno, il ricomportamento della famiglia italiana. Abbiamo visto i fondi in lieve ripresa alla fine del 2012 e diciamo che questa ripresa di opinione, di comportamento, poi si è riflessa nei risultati dell'inizio del 2013, come spesso accade, le ricerche anticipano un pochino i flussi. Abbiamo qualche segnale quindi positivo anche del fatto che gli italiani si siano un pochino distaccati dalla liquidità, il fatto di accantonare abbastanza risparmio, meno che in passato, non nessun dato entusiasmante purtroppo da comunicare, insomma, però hanno accumulato un po' di risparmio, i depositi si sono comunque rimpolpati un pochino grazie al taglio dei consumi purtroppo, e questo ha creato un po' di liquidità e quindi ha creato anche un po' di interesse a trovare delle destinazioni di questo risparmio. E l'industria del risparmio ha trovato effettivamente qualche chiave di accesso ai cuori e ai portafogli degli italiani, perché ci sono sembrati un pochino più vicini i fondi agli italiani di quanto non sia avvenuto nel recente passato. C'è un lavoro sulle proposte, sul linguaggio, eccetera. Il fatto, ad esempio, del successo dei fondi a cedola, dei fondi a finestra, dei prodotti vicini, abbiamo visto un tornare un pochino di interesse sui prodotti italiani e cose di questo genere, significa per noi che l'industria del risparmio è riuscita ad attivare quelle chiavi che erano vicine appunto al cuore italiano. L'industria ha cominciato a costruire prodotti più vicini alle esigenze delle famiglie. Quelli a cedola, per esempio, tipicamente possono permettere di avere degli accantonamenti periodici, appunto, e sì. Di conseguenza, ecco, certo, un'entrata straordinaria che magari è mancata dal lavoro, ecco. Sì, che al di là dell'aspetto tecnico, che è corretto, c'è un aspetto psicologico. Gli italiani hanno bisogno di mantenere una stretta relazione con il proprio denaro, perché in questo periodo di preoccupazioni sentono la necessità, e la cedola in qualche modo, come il fondo a finestra, sono delle soluzioni che mantengono, diciamo, in contatto gli italiani con il proprio denaro, al di là del fatto che danno anche questi vantaggi. Ma certo. Non voglio fare pubblicità su un aspetto o un prodotto specifico, voglio solo rimarcare il fatto che le relazioni si stanno rianimando attraverso proprio un lavoro che avvicina il prodotto ai bisogni. Mm-hmm. E questo ci dice anche il prossimo lavoro da fare, perché questo non è un lavoro completato, c'è un ulteriore lavoro sul linguaggio con cui parlare alle famiglie, a partire dai nomi dei prodotti che si devono capire, i contenuti, che cosa contengono, dove investono, eccetera, e poi andare verso le destinazioni di questo risparmio, cioè il tema dei progetti, del buon uso del denaro, eccetera, sono dei temi sui quali la famiglia ha un grande bisogno di assistenza. Benissimo, oggi. Grazie Fabrizio Fornezza, so che porterà questi messaggi proprio in occasione del Salone, lei per cui avremo anche noi occasione di risentirci sicuramente in quel frangente. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie molto. Fabrizio Fornezza, vicepresidente di GFK Eurisco. Fabio Galli intanto ha preso appunti, poi commenteremo tutte queste considerazioni fatte con Fornezza con lui tra poco. Prima però naturalmente cominciamo con la nostra scheda che ci racconta di nuovo un po' lo stato di salute del settore. Con la crisi economica diminuisce la liquidità a disposizione delle famiglie. Crescono le preoccupazioni legate al contingente e diminuiscono la voglia o comunque la disponibilità ad investire i propri risparmi. La situazione però sembra aver preso una piega diversa con l'arrivo dell'anno nuovo. A gennaio la raccolta si è chiusa con un segno più per 6,6 miliardi di euro e a febbraio la raccolta netta, secondo Assogestioni, vale 5,2 miliardi. Questo dato, se considerato insieme agli oltre 700 milioni provenienti dalle gestioni di portafoglio, permette al patrimonio dell'industria di raggiungere il nuovo record sopra quota 1.210 miliardi. La raccolta dei primi due mesi dell'anno sale così a 12 miliardi e compensa quegli 11,3 miliardi persi nel 2012. Sicuramente l'aspetto psicologico è una componente fondamentale e anche per questo bisognerà aspettare di vedere cosa succederà nei prossimi mesi e come si evolveranno alcuni elementi di incertezza politica ed economica. Per il momento però si può dire che tra gli italiani stiano tornando un po' di fiducia e voglia di investire. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande in diretta, 349 238 6666, il numero per i vostri sms. Fabio Galli, le faccio subito sentire come la pensano gli ascoltatori. Claudio ci dice: sono un promotore, da sempre consiglio i fondi comuni, 3 grandi crisi da quando lui fa questo lavoro evidentemente, ma patrimoni in crescita. Bruno invece: posso testimoniare che i fondi sono una fregatura, ci guadagnano solo i gestori. Messaggi di questo tenore tutte le volte che lo invitate li abbiamo sempre sentiti. C'è chi non ci crede per niente in questo prodotto di investimento, strumento di investimento, strumento di risparmio, chi invece ne è un assertore convinto. In tutto questo ci sarà anche una via di mezzo. Comunque condivide quello che diceva Fornezza: l'industria si è ripensata negli ultimi anni per diventare sempre più a misura di famiglia? Assolutamente, è la vera ragione per la quale, al di là anche delle dinamiche di mercato, del fatto che come paese di fronte a tante debolezze abbiamo un grande punto di forza, essere ancora un paese di risparmiatori, risparmiamo forse con più difficoltà ma continuiamo a risparmiare. Questo risparmio accumulato, sebbene investito, è quello che ci consente appunto di sostenere anche i consumi, perlomeno parzialmente, di fronte alla crisi economica. E certamente investire bene ci deve accompagnare, deve essere una di quelle capacità di base che noi sviluppiamo probabilmente fin dai tempi della scuola. Imparare ad investire è qualcosa come imparare a mangiare bene, imparare ad avere una vita sana, ad avere buone relazioni. Questo fatto fa sì che ovviamente dall'altra parte ci deve essere un'industria che sa offrire dei prodotti che sono in linea con le nostre esigenze concrete. Quindi per esempio, come ricordava anche il dottor Fornezza prima, avere per esempio la possibilità di avere un reddito continuo che viene da questo investimento in fondi, quindi non essere costretti necessariamente a rivenderli, ma certo, avere anche questa relazione continua con chi ce li propone, avere un dialogo aperto, e l'industria su questo ha fatto notevoli passi avanti. I numeri che sono stati citati sono numeri importanti, stiamo parlando di molti miliardi di euro di flusso e un patrimonio che ha superato il record storico, quindi stiamo parlando in un contesto molto difficile di un'industria che evidentemente sta incontrando il favore, ma perché ci sono dei punti di forza alla base. Se noi oggi non ci muoviamo al di là dell'investimento puramente sul conto corrente, sul breve termine, quindi se non ci spostiamo in un'ottica più consapevole di investimento anche di lungo termine, non riusciremo a far fruttare i nostri risparmi nel modo giusto. E i fondi sono lo strumento principe, quello che appunto diversificando ci consente di fare questo. Anche perché sì, è vero, tutte le volte che affrontiamo temi come questo e parliamo in termini generali dell'approccio della famiglia italiana al risparmio, la stressiamo così tanto per convincerla dell'importanza della diversificazione, e poi diciamo chiaramente una famiglia che ha anche magari delle entrate modeste non è che può diversificare in 40 prodotti, perché sono anche tutti quanti costosi, ci sono soggetti diversi con i quali interfacciarsi, e di conseguenza forse il fondo, proprio per la sua natura, è lo strumento che per eccellenza diversifica. Questo però poi non significa che vada bene sempre per tutti quanti, perché chiaramente bisogna anche questo conoscerlo, no? Ma assolutamente, tra l'altro qui voi a Radio 24 raccontate i mercati giorno per giorno, sono mercati molto difficili, sono mercati che forse affrontati in un'ottica appunto di immediatezza non consentono di fare buoni investimenti, quindi l'unico modo è in qualche modo fare i compiti, cioè avere un approccio consapevole, anche quando si ha il dialogo col proprio consulente, con chi ci dà una mano a fare investimenti, essere in grado di interloquire, fare le domande, sapere bene di che cosa si ha bisogno. E questo porta ad avere molte più soddisfazioni rispetto a un investimento che è un po' inconsapevole, il riflesso che non parte da delle domande, da un bel dialogo. Quando si costruisce questo rapporto con chi ci offre dei servizi di investimento, è nei fatti che investire in un portafoglio diversificato finanziario aiuta a vivere meglio, nel senso che aiuta ad avere quei ritorni che dobbiamo essere anche ovviamente razionali nelle aspettative che noi sviluppiamo. Per esempio il 2012 è stato un anno ottimo per chi ha tenuto i nervi saldi e aveva un'ottica di lungo periodo. Io voglio ricordare che la seconda metà del 2011 sembrava che questo paese dovesse affondare, c'era sostanzialmente una situazione di panico. Chi ha affrontato gli investimenti in tutta quella seconda metà del 2011, inizio 2012, con nervi saldi, con un bel dialogo con il proprio promotore, il proprio consulente, ha avuto dei risultati notevoli, stiamo parlando di risultati superiori al 10 e in alcuni casi al 20%, E anche partendo da cifre basse, avendo questo tipo di risultati e tenendo il sangue freddo, la nostra vita può cambiare nel lungo periodo. Cioè costruiamo una pensione diversa, costruiamo un futuro diverso per i nostri figli se dobbiamo finanziare delle spese di formazione, di educazione. Quindi io posso soltanto dire che questi numeri molto positivi da ormai qualche mese riflettono il fatto che è stato fatto un lavoro sia a livello di gestori, sia a livello di chi si occupa di consulenza per ricostruire questo dialogo e per stabilizzare anche, per rendere più consapevoli le persone che non si inseguono i mercati ma si costruisce il proprio portafoglio con delle ottiche più lungo periodo. Allora, abbiamo già un paio di ascoltatori pronti ad intervenire, prima però devo fare anche una finestra con Fabio Galli su questo appuntamento che si svolgerà a metà aprile a Milano, tanto per capire intanto se è accessibile, che cosa terribile che ho detto, accessibile a tutti, mi sembra di sì come gli anni passati, ci si può prenotare, adesso è chiaro che magari dalla Sicilia non verranno, come dire, dei gran pullman, ma però ci sono sorprese. Noi abbiamo tra l'altro abbiamo scuole, non soltanto abbiamo professionisti, abbiamo c'è un interesse enorme, siamo quasi sorpresi dal successo che sta avendo questa quarta edizione, perché a poche settimane dal lancio ci sono quasi 10.000 persone che ormai si sono iscritte. Il terzo giorno è totalmente aperto, ma ci sono molte occasioni durante le tre giornate. Ringrazio Radio 24 che ci dà un grosso supporto nel rendere accessibile l'evento. Ormai è forse l'evento che ha maggiore impatto sul mondo, sulla relazione, sul mondo di interloquire tra mondo della finanza e mondo dei risparmiatori, che non ha molte occasioni al di fuori di quelli che sono i rapporti personali, certo, diretti. E ci sono più di 100 conferenze, i seminari più disparati, credo che ci sia veramente posizioni le più critiche e le più entusiastiche. È veramente un momento per farsi un'idea anche autonomamente di che cosa succede nel mondo degli investimenti e del risparmio. Come viaggia anche l'industria. Allora, che cosa facciamo? Sentiamo già un paio di ascoltatori, così almeno mettiamo un po' di carne al fuoco, come si dice in certe circostanze. Sentiamo subito un ascoltatore scettico rispetto al tema fondo comune, Riccardo da Pescara, addirittura un ex dirigente di banca, che dice: proprio io di questi strumenti di investimento non ne voglio saper nulla. Riccardo, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Senta, io vorrei fare un paio di osservazioni velocissime. Innanzitutto, nella mia vita post bancaria, se io sono pensionato da una quindicina d'anni, le assicuro che non sono assolutamente uno di quelli che stanno tutto il giorno attaccato al personal. Mi sono fatto un giardinetto variabile, ovviamente, di azioni italiane ed estere, e ho sempre, sempre, ripeto, guadagnato poco o tanto, ma poiché la borsa, come ci insegnano, è ciclica, oggi perdo ma fra 5 anni guadagno. Questo senza corrispondere assolutamente delle provvigioni a gestori il cui target il più delle volte non vengono mai raggiunti, mai. No, è difficilissimo, anche sulle cose più banali, quelle ad esempio di titoli obbligazionari o addirittura monetari. E questo voglio dire perché? Perché tutto sommato, io penso, forse sarò maligno, ma come diceva qualcuno, a pensar male ci si azzecca. Il primo compito del gestore è ovviamente quello di guadagnare, se poi guadagna anche il cliente tanto meglio, ma se ci rimette non cambia nulla, tanto il cliente deve sempre pagare. Questo è quanto. Sì, grazie Riccardo. Guardi, Fabio Galli ha le spalle larghe, sa quante volte queste riflessioni le ha sentite. Adesso, se ha pazienza, rispondiamo dopo la prima pausa pubblicitaria. Le osservazioni che fa Riccardo, dicevo, le abbiamo sentite sicuramente tante volte. Lui dice: io comunque non è che sto tutto il giorno davanti al computer, quindi ho come dire tutto il tempo da dedicare. È anche vero, Riccardo, che sicuramente l'ENA ha un po' di più rispetto a tante persone che invece non possono costruirsi direttamente un giardinetto e preferiscono delegare completamente questa attività di gestione del proprio risparmio. E anche in questo, insomma, tra due posizioni completamente contrapposte, una via di mezzo ci sarà. Il tema poi anche del guadagno del gestore, beh, è logico che una professionalità di questo tipo debba essere remunerata, va remunerata poi anche la società che distribuisce questi prodotti, c'è il famoso tema delle commissioni di retrocessione che abbiamo straaffrontato 2000 volte, insomma un po' di cose da commentare tra poco dopo la nostra prima pausa. I fondi comuni sono investimenti collettivi nei quali confluiscono i capitali di una moltitudine di investitori. Il patrimonio del fondo, costituito dai capitali dei sottoscrittori, viene ripartito in quote. Ogni risparmiatore detiene un certo numero di quote in proporzione al capitale versato. Si tratta di strumenti particolarmente adatti ai risparmiatori e alle famiglie che investono con l'obiettivo di consolidare e accrescere un capitale nel tempo. In alcuni casi l'investimento minimo è di 50 o 100 euro. L'unione fa la forza. Affidandosi a questa cassa comune, tutti possono beneficiare di un investimento professionale, al quale non potrebbero accedere con un capitale limitato. Ci sono quindi un maggiore potere contrattuale e maggiori possibilità di diversificare. Investendo in un fondo comune, non si può sapere esattamente quale sarà il guadagno ad una certa data, come accade ad esempio per chi acquista titoli di Stato. Il rendimento dipende dall'andamento dei mercati finanziari e dal momento in cui si investe. Ci sono alcuni costi dovuti alla società che si occupa della gestione del fondo e riportati nel prospetto informativo di ciascun prodotto. Ognuno può decidere quando disinvestire i propri risparmi. Non c'è alcun obbligo in questo senso e si può uscire liberamente dal fondo quando si vuole. Naturalmente, chi prende questa decisione incassa il controvalore delle quote possedute rispetto alla quotazione del momento. Se il valore è cresciuto, ci sarà stato un guadagno, in caso contrario, una perdita. Trattandosi di investimento, c'è quindi una componente di rischio legato all'andamento dei mercati finanziari. Se si investe in un fondo azionario, il rischio è maggiore, ma lo è anche la possibilità di guadagnare. Nel caso di fondi obbligazionari, si rischia meno, ma si guadagna anche meno. È praticamente impossibile, in ogni caso, perdere tutti i propri risparmi. Dovrebbero fallire tutte le società che hanno emesso i titoli acquistati dal fondo e i gestori professionali a cui ci si affida in questi casi investono solitamente in decine e spesso centinaia di titoli diversi. Eh sì, non c'è mai sentito, anche se chissà in futuro cosa potrà succedere, di un gestore che è scappato con un fondo, Fabio Galli. Nel panorama del risparmio, ma anche in altri settori, ne abbiamo sentite tante, questa ancora no. No, ma anche perché è impossibile che accada, nel senso che il gestore non ha fisicamente i soldi del risparmiatore. Esatto. Questi sono tenuti da una banca separata e quindi il sistema è come se avesse una separazione tra chi opera e chi controlla. Questo non avviene per altri prodotti e quindi i fondi non hanno mai avuto questo tipo di malversazione. Allora, rispondiamo a Riccardo da Pescara che diceva: io ho il mio giardinetto sempre guadagnato, preferisco non delegare ad un gestore perché chiaramente prima di tutto lui dice, fa il suo interesse, pensa al suo guadagno, poi pensa chiaramente al beneficio che ne può ottenere il sottoscrittore di un fondo. Poi magari facciamo il punto sulla rosa di tutti i costi che attengono a un investimento sui fondi comuni di investimento, però insomma questa osservazione di Riccardo l'abbiamo sentita tante altre volte. No, ma non è un'osservazione irragionevole, anzi è una persona che chiaramente ha delle competenze perché ha avuto una professione in ambito bancario, finanziario, oggi ha molto tempo a disposizione e in parte lo dedica a fare quell'analisi e ci dice anche che ha fatto bene. Così, se io fossi un medico probabilmente avrei meno bisogno di vedere un altro medico. Certo, anche un medico a volte vuole vedere lo specialista, perché io posso essere un medico generico, quindi fare bene per quanto riguarda la mia salute, ma poi se ho un certo tipo di problema vado dallo specialista. Così in questo caso io mi rendo conto che si possa gestire bene in proprio può accadere, è una competenza specifica che non appartiene alla maggioranza della popolazione. Quando si fanno queste cose però bisogna anche tenere presente che se non questa persona potrebbe valutare se fare degli investimenti su mercati in cui non arriva lui da solo per sua competenza. Oggi come oggi, per esempio, le migliori soddisfazioni in termini di diversificazione sono su mercati molto lontani da noi, i mercati emergenti e non solo. Dubito, credo che sia molto più difficile seguire quel tipo di mercati senza essere un professionista e dedicarvi del tempo. Magari c'è soddisfazione a usare soltanto certo. Botte azioni italiane, ma posso assicurare che è un dato di fatto che se diversifichiamo meglio otteniamo migliori risultati. Quanto poi all'idea che un gestore, certamente un gestore è pagato per fare quello che deve fare, lo deve fare bene. Quindi è giusto che si vada a verificare quanto costa e verificare se i risultati sono risultati che ci soddisfano. Detto ciò, l'interesse del gestore è completamente allineato a quello del proprio cliente, perché più aumentano le masse, più lui guadagna. Quindi quando ci sono mercati che scendono difficili, per esempio dopo una crisi come quella del mercato azionario 2007-2008, in cui i fondi azionari come i mercati hanno perso in quel momento, quindi in quel momento molto, i gestori sono andati ad incassare la metà, nel senso che si dimezzano anche le commissioni. quindi non c'è mai nessun gestore che è indifferente alla propria performance e all'andamento dei mercati. Qualunque gestore ha perfettamente chiaro che più fa bene, più sarà pagato. Quindi, in primo luogo, c'è un allineamento. Quanto alla soddisfazione, giustamente, i risparmiatori più esperti con i propri consulenti valuteranno quali tipo di prodotti sono più adatti, sono più giusti. Per esempio, da soli è molto difficile, come ricordavamo prima, creare un portafoglio che dia anche una cedola, quindi un pagamento periodico che sia costante, che sia quello che noi ci aspettiamo. È quasi impossibile costruirsi questo portafoglio da soli, anche usando soltanto dei titoli di Stato, la frammentazione delle varie emissioni. Un fondo fa esattamente questo, cioè non è soltanto molto spesso una questione di performance, è anche come viene reimpacchettato il prodotto finanziario, quindi come vengono serviti dei specifici servizi. Con questo quadro in mano, io penso che tutti, ovviamente più chi è, diciamo, ha magari meno dimestichezza con i mercati finanziari, ma anche chi è quasi un professionista o è stato un professionista, come nel caso del nostro ascoltatore, può sicuramente, andando ad analizzare prodotto per prodotto, trovare qualcosa che invece gli può servire, e gli può servire bene. Certo. Allora, senta, c'è un'ascoltatrice, Milena, che dice: perché non utilizzare gli ETF al posto dei fondi? Tra commissioni di ingresso e di gestione, quanto tempo ci vuole per recuperare quanto anticipato? Allora, qui dobbiamo spezzettare le osservazioni dell'ascoltatrice in due. Perché non utilizzare gli ETF al posto dei fondi? Sicuramente in un portafoglio diversificato si possono fare entrambe le scelte, anche l'industria degli ETF, che in qualche maniera è nell'ambito del pacchetto fondi, anche se hanno una dinamica appunto differente, ha avuto un grandissimo successo negli ultimi anni. Anche in questo caso l'industria ha cercato di raccogliere appunto le esigenze nuove del mondo del risparmio. Ma intanto vorrei sfatare un mito: gli ETF sono fondi, esatto. Quindi sono assolutamente fondi aperti e sono dei fondi che promettono e mirano a replicare l'andamento di mercato, quindi non danno profili di rischio e ritorno che sono modificati rispetto ai mercati sottostanti, ma semplicemente danno il profilo del benchmark di mercato, o mirano a dare il profilo, ma sono a tutti gli effetti dei fondi. Quindi giustamente in un portafoglio diversificato si valuta anche di avere degli ETF per certe porzioni del portafoglio. Lo usano molto anche gli stessi gestori nelle gestioni individuali, in cui l'asset allocation viene gestito da un gestore attivo. Viceversa, diciamo, si preferisce non fare lo stock picking. Adesso forse entrare un po' in termini tecnici, ma l'idea che l'ETF sia qualcosa di altro e diverso dal fondo, stiamo parlando di un tipo di fondo, quindi ben venga l'investimento anche in ETF, così come nei fondi a gestione attiva. Si valuterà su quali mercati è più interessante avere un ETF, su quali altri avere fondi a gestione attiva, e soprattutto come metterli insieme, e poi decidere se si è in grado o se si trovano dei fondi, per esempio, che per la loro tipologia di investimento, cambiando il rischio di mercato e proponendo un rischio diverso, in alcuni casi un'attenuazione del rischio, per esempio i fondi garantiti. Gli ETF non sono fondi mai garantiti, perché replicano un mercato con tutti i rischi di quel mercato specifico. Se noi andiamo a comprare dei fondi garantiti o dei fondi che hanno degli obiettivi di stabilizzazione del rischio, questi per definizione non sono ETF, ma tutto ciò fa parte dello spettro di offerta, dell'ampiezza di offerta, e quindi sono tutte riflessioni che vale la pena fare. E più i risparmiatori fanno queste riflessioni e ne discutono con chi gli propone prodotti, più ci sarà, secondo me, un clima di fiducia e costruttivo nel modo di affrontare l'investimento, compreso capire esattamente che molto spesso nel breve periodo ci possono essere delle situazioni difficili di correzione dei mercati, di perdita, ma che quando si è costruito, si è molto convinti di quello che si è fatto e si ha la sensazione, la fiducia della persona con cui si è dialogato, si superano quei momenti e i mercati nel medio lungo periodo alla fine ci riportano sopra. Devo dire che molti ascoltatori, anche questo è un altro tema stratrattato, ricordano come effettivamente questa crisi nella quale ci stiamo ritrovando in questo momento non dà tanto ragione alla logica del lungo periodo, perché ci sono appunto, per esempio, nel 2009 abbiamo raggiunto i minimi che non si vedevano dal 97 addirittura, quindi una crisi che ha cancellato addirittura un corso di borsa distanza di quasi 12 anni. Posso aggiungere solo una virgola? Questo è un ragionamento che è molto vero per i mercati azionari dei paesi sviluppati. Se noi già ampliamo questo discorso ai mercati obbligazionari, voglio ricordare che gli italiani sono investiti attraverso i fondi sul mercato obbligazionari per il 70% dei propri risparmi. I mercati obbligazionari non hanno avuto quel tipo di storia, anzi sono stati anni dove il rendimento obbligazionario è stato incredibilmente buono, un po' come è stato nel periodo di convergenza verso l'euro nella seconda metà degli anni 90, in cui chi aveva investito in fondi che erano investiti in titoli di Stato denominati in lira o di altri paesi della convergenza hanno avuto dei ritorni importanti. Quindi non dobbiamo rimanere legati, per esempio, a mercati specifici. Proprio la logica della diversificazione ci fa vedere che ci sono mercati che sono andati piuttosto bene, se non molto bene, nel momento in cui altri invece ci hanno dato delle grosse preoccupazioni. Questo diversificare, guardare in maniera molto ampia le opportunità di mercato, possiamo pensare dalle materie prime a quant'altro, ci slega un po' anche le tensioni, perché molte volte le nostre tensioni sono super specifiche. Oggi noi siamo, la nostra attenzione è tutta rivolta allo spread del BTP, sì. No? È una giornata brutta, credo, oggi sui mercati. Sì. Ecco, ma se noi guardiamo il mondo degli investimenti attraverso un singolo parametro di rischio, perdiamo la cognizione che probabilmente oggi, in qualche parte del mondo, i nostri investimenti, se fossero diversificati, là stanno in realtà salendo e non scendendo. Quindi viene compensato il calo appunto di una determinata... Questa è la logica della diversificazione, quindi rimaniamo meno costretti ad avere questo stato di perenne o euforia o angoscia e abbiamo un approccio molto più razionale a quello che avviene e alle opportunità che ci sono, che ovviamente sono ben al di là delle Alpi, cioè per usare una metafora. E allora ritorniamo un po' a far questo resoconto sul tema fondo comune di investimento, che cosa sono questi prodotti di risparmio, che stato di salute hanno. Tra l'altro Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, salutiamo il presidente Domenico Siniscalco che è stato riconfermato proprio ieri alla presidenza. Abbiamo non avuto ridete, sì, la nostra assemblea ieri. Esatto. Sì. Seconda cosa, quante SGR abbiamo in Italia che gestiscono appunto fondi comuni di investimento per risparmiatori italiani? In Italia o che sono operative? Presenti in Italia, sì. Sì, allora abbiamo... Perché il panorama anche lì è molto ricco. Assolutamente, abbiamo società che proprio sono di matrice italiana, appartengono a gruppi italiani, sono circa una sessantina, che operano sui fondi aperti, quelli per il pubblico retail, quindi che non sono di venture capital o fondi chiusi. Poi abbiamo molte società che gestiscono anche i fondi immobiliari, sempre di diritto italiano, circa una trentina. È molto specializzata anche. E poi abbiamo... Questo è un mercato puramente europeo, tutto regolato da delle direttive europee, ci sono molti operatori che arrivano da Londra, da Parigi, da Francoforte, stiamo parlando complessivamente di almeno 300 società, ma soprattutto di quasi 5.000 fondi, quindi stiamo parlando di qualcosa di molto molto ampio nell'offerta. Certo. Tra l'altro io devo dire una cosa che so che risulterà anche molto impopolare, molto fastidiosa anche alle persone che ci ascoltano, soprattutto quelle che in questo momento si trovano in una condizione di difficoltà a sentire le società. Io le incontro spesso, vado a moderare convegni, vado ad assistere a convegni e quasi tutte parlano ancora di potenzialità di crescita nel nostro paese elevatissime. È c'è vero. Ancora... No, ma è vero perché... Non nel senso di dire che l'industria dei fondi cerca assolutamente di accaparrare, nel senso proprio tutti gli attori del mondo dell'investimento dicono la stessa cosa. No, ma è vero per due ragioni. Innanzitutto, noi eravamo più bravi dei giapponesi a risparmiare 10, 15, 20 anni fa. Sicuramente oggi è più difficile risparmiare, ma risparmiamo ancora. Cioè, gli italiani come famiglie mettono ancora da parte del denaro per pensare al futuro. E questo ce lo diceva anche il dottor Fornezza. Quindi noi siamo ancora risparmiatori. Evidentemente su 100 famiglie non tutte 100 riescono a risparmiare. Ci sono delle famiglie in difficoltà, ma ci sono molte famiglie che, e qualcuna non assolutamente con dei redditi elevati, ma stringendo i denti, c'è molta gente che risparmia. Questo è il motivo per cui investire bene è fondamentale. Tre domande subito, l'ho interrotta Galli, proprio brutalmente, perché sennò questi poveri ascoltatori penseranno che li sto tenendo lì appesi al telefono inutilmente. Giuseppe da Torino, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Volevo segnalare una patrimoniale che il governo Monti ha applicato ai possessori di fondi nel 2011, che sia i giornalisti sia i gestori ovviamente si sono guardati bene da segnalare. Guardi, adesso se è quella che dico io, Giuseppe, non accetto questa critica perché ho fatto un sacco di trasmissioni, quindi vediamo qual è. Faccio subito un esempio numerico. 2009-2010, 100.000 euro. perdo 20-30%, nel 2012 faccio una conversione, bene, dal 2011 al 2012 avevo recuperato un 10-15%. Che cosa è successo? Che io sono stato tassato, pur essendo ancora in perdita, di questo recupero, perché Monti ha detto nel 2011 il prezzo di carico dei fondi sono nel 2011. Questa cosa è stata taciuta perché nessuno ha detto nulla, i risparmiatori molti non sanno perché non hanno fatto magari conversioni la maggior parte, mentre questa tassa è stata applicata pesantemente, quindi non è stato soltanto un passaggio dal 12,5% al 20%, ma anche su un guadagno che non è, in realtà non c'è stato. C'è stato questa bella tassa. Ma lei tassa. Si riferisce alla patrimoniale, allo 0,10%? Alla mini patrimoniale? No, al fatto che io a luglio del riferimento dei valore di carico dei fondi è stato retrocesso a luglio 2011, partendo dal 2012. Chi aveva i fondi, gli è stato detto, è partita la nuova tassazione e contemporaneamente il prezzo di carico non era quello vero, ma quello che valeva a luglio del 2011. Allora Giuseppe, aspetti di sì, Galli. No, sicuramente l'ascoltatore ha ragione sul fatto che il passaggio del sistema di tassazione da maturato a realizzato che è avvenuto il primo di luglio 2011 non c'entra il governo Monti, nel senso che il passaggio della tassazione avvenne sotto il governo precedente e da un provvedimento del ministro Tremonti che ha regolato questo passaggio. Comunque questo passaggio è effettivamente complesso da un punto di vista tecnico, l'ascoltatore ha ragione, perché le aliquote precedenti al 12,50 che maturavano anche le perdite al 12,50, quando poi nel periodo successivo si invece accumulavano dei rendimenti, venivano tassati al 20, e quindi la compensazione ha una formula matematica complessa. Questo fa sì che la percezione, perlomeno in alcuni casi, poi il caso specifico dovrebbe essere ricostruito con le singole date, esattamente esatto. Le operazioni fatte, però può esserci in alcuni casi che, anche se nei fatti non è così, la percezione è quella di aver avuto una tassazione più forte nel momento di rendimento positivo che non quello che era stato riconosciuto nel momento di accumulo della perdita come credito, come risparmio d'imposta. Sicuramente la gestione di quella fase di transizione tecnicamente non è stata il massimo della soddisfacenza. Noi avremmo sicuramente preferito non avere l'aliquota al 20%, perché è chiaro che è stato un aumento della tassazione del risparmio degli italiani. Tuttavia, guardando avanti, oggi noi abbiamo un sistema di tassazione dei fondi che è molto efficiente, nel senso che i fondi vengono tassati solo quando vengono disinvestimento e se c'è un utile. Quindi sicuramente il momento della transizione poteva essere, come dire, architettato in maniera più di favore nel confronto del risparmiatore. Lo Stato italiano, quando discute di queste cose, lo fa sempre pensando con tre parlamentari che dicono che si occupano di finanza, invece non... Sì, e poi tenendo sempre... I cordoni della borsa sono così chiusi, per cui sicuramente sia dal punto di vista dei media, sia dal punto di vista dell'industria, noi abbiamo messo in rilievo che quel passaggio a un'aliquota maggiore con tutti i meccanismi era un passaggio delicato, ma chiaramente lo Stato italiano ha una particolare avversione a tutto ciò certo, che va a favore. Io però sono certa, questo era un caso molto specifico, di esserci occupata di questo tema con Gianfranco Ursino di Plus 24 del Sole 24 Ore, quindi per dirlo anche al nostro ascoltatore, non per difenderci perché non è che abbiamo bisogno, però in realtà sono però questioni talmente complicate che anche imbastirci una puntata solo su un caso di un ascoltatore appunto che ci racconta una cosa così specifica è anche abbastanza difficile. Carlo da Milano, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo dire solo una cosa. Io sono andato in banca e ho sottoscritto un fondo, una cifra abbastanza relativa, 25.000 euro, vabbè, Carlo, obbligazionario con le cedole, e sono 6 mesi, sono soddisfatto. Ottimo. E la cosa strana è stata questa: io quando sono andato lì mi avevano prospettato una commissione di entrata del 3%. E io ho detto, ma 3% a me sembra tanto, insomma sono stato lì abbastanza titubante. Alla fine sta tipa, probabilmente di tirare fuori il discorso, mi ha detto, aspetti un attimo, vediamo, forse riesco a farle anche l'1,50. Ha negoziato. È andata via, no? Il telefono ce l'aveva lì, è andato, vado a telefonare da un'altra parte. È tornata indietro, mi ha detto, guardi, se vuole per entrare le fanno l'1,50%. Allora A me è andata anche bene. E cioè, Carlo, guardi, cara grazia, che lei portava 25.000 euro là, per cui le dovevano fare anche un ponte d'oro, le dico, oltre che abbassarle di metà la commissione. Perché ho detto, ma allora se vale uno che ha certo. Provveduto, che non dice niente, si becca il 3%. Carlo, guardi, intanto Fabio Gallo le dice che ha fatto bene. Quello che io ribadisco è il concetto che ribadisco una settimana sì e una no. Vi ricordate Marco Fratini, il collega che lavora alla 7, adesso che abbiamo ospitato tante volte perché ha scritto Vaffanbanca, Vaffancrisi, la sua teoria principe dei suoi libri è: le banche sono dei negozi, non sono delle chiese, quindi trattate tutti fino allo sfinimento, punto. Galli. No, assolutamente. Allora, questo dà l'occasione anche di abbiamo parlare. Abbiamo un minuto e mezzo. Cerco di essere super grazie. Sintetico. Allora, le commissioni d'ingresso di cui parla il nostro ascoltatore sono negoziabili. Nel prospetto di molti fondi questo è scritto chiaramente, quindi lui ha fatto bene, avendo comunque una cifra importante, 25.000 euro in un'unica soluzione di investimento. Sono una cifra rilevante, il 3%, se non faccio male i conti, sono 750 euro. Quindi ben venga che ci sia una negoziazione. E a questo punto ci sia un dialogo con il proprio collocatore che può valutare. Le Quali commissioni altre sono di gestione, le commissioni di gestione, che sono quelle che sono a carico del fondo, quindi quella commissione di cui parla il nostro ascoltatore, è qualcosa che va a remunerare chi ci propone, chi ci vende il fondo. Le commissioni a carico del fondo sono più basse, non raggiungono certo il 3% e non certamente su un prodotto di quel tipo. Quelle sono invece identiche per ogni partecipante al fondo, non sono negoziabili, quindi c'è un trattamento assolutamente identico di tutti. Non dovete preoccuparvi che nel corso dell'investimento si debbano andare a fare questo tipo di negoziazione. Sulle commissioni d'ingresso fate domande, se portate delle cifre interessanti è giusto, anche perché sarà lo stesso venditore che valuta se questo è... E poi sono sicura che se quel direttore di banca o quel consulente in quel momento dice no, ce ne sarà un altro ben contento di abbassarsi appunto la commissione pur di prendere questo. A meno che dica no, dica no, dica no in realtà, perché ha fatto tutta una costruzione di portafoglio di consulenza che merita di essere remunerato in quel certo. modo. Galli, grazie per essere stato grazie con a voi, noi. Mercoledì prossimo noi vorremmo fare i fondi pensione, adesso vedremo con quali ospiti, magari gli amici di Assogestioni appunto ci aiuteranno anche a capire di nuovo quel mondo, che è un tema piuttosto delicato soprattutto per tutte le famiglie e i lavoratori. Grazie, ci sentiamo domani, a tutti buona giornata.